Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. My place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Che le elezioni 2020 avrebbero registrato un nuovo picco di spesa era quasi scontato, un trend che difficilmente si potrà invertire se non cambieranno le regolamentazioni. Quello che però ha stupito è che la cifra complessiva sia praticamente raddoppiata rispetto alla tornata elettorale del 2016. Buongiorno a tutti, da Deborah Rossani ritorniamo a parlare di elezioni americane questa mattina, ma lo facciamo chiaramente dal punto di vista del denaro, come sempre ci capita di fare qui a Due di Denaro. Ritorneremo a commentare questa inedita reazione di borsa rispetto ad un risultato elettorale ancora incerto, sembra abbastanza scontato, ma non diciamo niente fino all'ultimo, eppure i mercati festeggiano, celebrano, non si sa bene che cosa, ma ce lo faremo spiegare questa mattina dai nostri esperti. Ma perché noi stamattina abbiamo deciso di iniziare con il tema del costo di questa campagna elettorale? Perché ci sono questi dati molto interessanti che ha pubblicato questa mattina l'Espresso, intervistando Brendan Quinn, responsabile delle attività esterne del Center for Responsive Politics. Dietro queste cifre astronomiche ci sono i super PAC, PAC, che non sono i piani di accumulo, ma sono potentissimi e influenti gruppo di appoggi esterni, Secondo appunto quello che ci dicono questi rilevamenti, grandi donatori vicini a entrambi i partiti, ma anche i piccoli donatori, quelli che per intenderci hanno donato meno di $200, appunto sono proprio tutte queste figure dietro alle cifre enormi che hanno sostenuto questa campagna elettorale. Da una parte e dall'altra. Allora, nel dettaglio, i democratici hanno raccolto 1,7 miliardi di dollari, i repubblicani si sono fermati ad uno, probabilmente il presidente Trump ha fatto molto con il suo. I piccoli donatori rappresentano una percentuale sempre più ampia della raccolta fondi complessiva, spiega appunto Brendan Quinn, e ciò è dovuto in parte alla facilità delle donazioni online. Basta infatti un click per donare anche un solo dollaro e quindi per sostenere il proprio candidato, il proprio partito. E questa è una rivoluzione digitale che negli anni ha portato nelle casse Dem, dei democratici, più che a quelle repubblicane, decine di milioni di dollari. Un tema interessante, anche questo, chissà se è anche questo un tema di investimento del quale potremo parlare questa mattina con i nostri ospiti, visto che è giovedì e quindi è tempo di investire informati. Allora, oggi cercheremo di capire qual è il miglior approccio per investire su questo mercato americano che davvero ci riserva una sorpresa dietro l'altra, ma per la verità il mercato tutto è sorprendente in termini di reazione rispetto a questo contesto elettorale che si sta manifestando negli Stati Uniti. Non abbiamo ancora con certezza appunto la designazione di Joe Biden alla prossima guida della Casa Bianca, eppure il mercato non scommette tanto su questo. A quanto pare, a quanto ci hanno raccontato gli esperti, ma stamattina ne capiremo qualcosa in più, il mercato è contento che non sia arrivata totalmente la blue wave, cioè l'ondata blu. Il Senato rimane in mano repubblicana e questo significa che Joe Biden non potrà fare tutto quello che vorrà in termini di inasprimento fiscale. Voleva fare un po' di marcia indietro rispetto le misure prese nel mandato di Trump, e quindi non potendolo fare, non avendo mano libera completamente di poterlo fare, il mercato dice oh, molto bene, allora Wall Street potrà continuare a correre. Io l'ho molto semplificata la teoria degli operatori finanziari, fra un po' avremo appunto gli esperti che ci diranno qualcosa di più preciso in questo senso. Intanto, se volete intervenire anche questa mattina a Investire Informati, 800 24 00 24 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi vocali o su WhatsApp scritti o scritti sul canale SMS. Adesso direi che possiamo partire anche con le altre notizie in breve. Drin drin, edicola risparmio. Ma sì, ne ha parlato anche il giornale radio, volevamo segnalarvi anche noi la conferma dello sciopero nazionale di domani del settore taxi, conducenti delle auto bianche si ritroveranno alle 10 davanti al Ministero delle Finanze in via 20 settembre a Roma e manifesteranno anche al Ministero dei Trasporti, causa impossibilità di spostarsi per il nuovo DPCM in molte città, ci saranno altrettante manifestazioni di protesta, quindi ogni tassista rimarrà nella propria località. Esporranno poi uno striscione, hanno detto, alla stazione Termini con la scritta: oggi sciopero taxi, ci scusiamo con l'utenza ma non abbiamo nemmeno più i soldi per il carburante. Noi naturalmente manifestiamo anche a questa categoria come a tutte le altre in grandi difficoltà la nostra solidarietà. Ci siamo spesso scontrati verbalmente con i tassisti quando giochiamo con loro sul fatto che non accettano di essere pagati con il POS, con la carta di credito, con il bancomat. Peraltro così non è, perché vi devo dire che per lavoro nelle ultime ore io a Milano mi sono spostata, ho avuto la necessità di prendere un taxi, proprio un tassista mi ha chiesto: vuole pagare con il POS oppure vuole, preferisce il contante? Per cui devo dire che anche io ormai tutti i pregiudizi li sto demolendo, e quindi appunto questa è la manifestazione dei tassisti domani. Voglio poi ricordarvi un'altra cosa che con i tassisti non c'entra nulla, che oggi con il Sole 24 Ore c'è in edicola, allegata al Sole, ma bisogna comprarlo a parte, costa appena 50 centesimi, c'è una guida, i risparmi di una vita, come gestire il patrimonio, e poi sono temi che affrontiamo anche noi costantemente a Due di Denari, una guida con indicazioni pratiche per capire quanto costa tenere i soldi fermi in banca, come contrastare l'erosione dei risparmi che giacciono sul conto tra costi, inflazione e zero remunerazione, tutti aspetti che molti consumatori e risparmiatori non conoscono e non considerano nella maniera giusta. È un tema di grande importanza se pensiamo che a settembre, lo ricordiamo ancora, sui conti correnti delle famiglie italiane erano depositati 1.682 miliardi di euro. Tutto appunto lì depositato senza essere investito o impiegato diversamente. All'interno di questa guida ci sono anche indicazioni su come orientarsi fra obbligazioni, titoli di Stato, mercato azionario, le diverse forme di finanziamento e tanto altro ancora. Tante informazioni di questo tipo le trovate però anche nel libro della premiata ditta Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Investire è facile anche nei momenti difficili, e se state attenti questa mattina al programma ad un certo punto vi faremo il consueto domandone con il quale vi potrete guadagnare anche la possibilità di averlo a casa, perché ve lo manderemo molto volentieri dietro la risposta corretta. Allora, altra notizia rapidissima, ciò che tanto si temeva è accaduto. Il 22 ottobre il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Dentix Italia e quindi tutti gli ex clienti in cura presso le cliniche di questa istituzione dove era possibile curarsi i denti, qualcuno le chiama un po' le cliniche low cost del settore. Queste cliniche sono ormai chiuse dal primo lockdown di marzo e tutti gli ex clienti che non solo non potranno più continuare a curarsi, ma hanno anche anticipato dei pagamenti o si sono anche indebitate, hanno sottoscritto dei prestiti per continuare a curarsi, ecco che adesso tutte queste persone potranno fare domanda di insinuazione al passivo al giudice fallimentare per cercare di riavere appunto quanto anticipato per le cure dentistiche mai ricevute. Sul sito della società la notizia del fallimento non è ancora stata ufficializzata, però se ne sono bene accorte le associazioni dei consumatori che ci hanno segnalato naturalmente la notizia e che sono già al lavoro per assistere al meglio i consumatori, i pazienti, potremmo meglio dire, in questa fase, con la chiusura definitiva dei centri peraltro. Le vittime sono ovviamente tutti i clienti che hanno già anticipato i soldi ma non hanno ricevuto la cura, ma ci sono anche i 400 lavoratori di questo circuito appunto di dentistico, non saprei neanche come chiamarlo, 400 lavoratori fra dentisti, impiegati e assistenti che pure si insinueranno nel processo fallimentare con la speranza di recuperare ciò che a loro spetta per aver correttamente appunto lavorato. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, sono un ascoltatore ex dipendente pubblico, andato un anno fa in pensione con quota 100. E mi riferisco al fatto che il governo aveva promesso l'anticipo del TFS tramite accordi con le banche, eccetera. Ancora la cosa è poco chiara. Mi riferisco specialmente a questo difficile momento dove gli investimenti sono opportuni. Io ad esempio dovrei prendere intorno ai 40.000 euro fra 2 anni circa, però sarei disposto a spenderli immediatamente se si attiva questa questione con le banche. Si può sapere qualche cosa? Giuseppe dalla Sardegna, buongiorno. Caro Giuseppe, allora il trattamento di fine servizio è il TFR del settore pubblico, come sapete, lo sanno bene gli insegnanti e tutti i professionisti appunto del comparto pubblico. Abbiamo trovato questa notizia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Lavoro hanno firmato il 22 ottobre scorso la convenzione del Fondo di Garanzia per l'erogazione dell'anticipo del TFS. Lo ha comunicato appunto la Funzione Pubblica. Adesso però il testo passa, e qua a Mauro Meazza verrebbe l'orticaria, e Mauro lo salutiamo, tornerà prestissimo. Il testo passa al Ministero dell'Economia per l'ultimo via libera che renderà operativa la procedura, e noi vigileremo affinché il Ministero dell'Economia firmi quanto prima questo documento. Allora, detto questo, abbiamo terminato con le notizie in breve. Caro Pietro Lacorte, che finalmente ogni tanto ti degni di venire anche a gestire la regia di Due di Denari insieme a Marco Lombardo, che è qui con me questa mattina, partiamo con i nostri mercati. Allora, abbiamo guardato davvero con grande attenzione alla dinamica dei mercati di questi ultimi giorni, perché volevamo capire intanto per chi il mercato facesse il tifo, e soprattutto volevamo capire, a seconda chiaramente della difficoltà o meno di chiudere questa tornata elettorale che si era già preannunciata come complicata, perché tanto Trump l'aveva detto, qualunque cosa succederà a mio sfavore io la contesterò. Ebbene, di fronte a tutto lo scenario possibile ed immaginabile, e il peggiore in termini di incertezza è lo scenario proprio che si è concretizzato, avevamo sempre detto il mercato non ama l'incertezza, e di fronte a questa sicuramente manifesterà forte volatilità, se non addirittura un andamento negativo. Ecco, pronto, subito siamo stati sconfessati ancora una volta. Davvero da anni i mercati di fronte alle notizie reagiscono nella maniera che non è mai stata scritta in nessun manuale dell'economia. Vanno davvero in una modalità tutta loro, e anche questa volta hanno confermato una risposta del tutto inedita rispetto, come vi dicevo, a questo scenario di incertezza. Perché? Che cosa è successo? Ce lo facciamo spiegare stamattina da Fabrizio Fiorini, poi interverrà anche un altro ospite. Fabrizio Fiorini è responsabile degli investimenti e vice direttore generale di Pramerica SGR. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come dicevo prima, in linea teorica quello che sta succedendo in queste ore, ancora non abbiamo la possibilità di ufficializzare la nuova presidenza americana, quello che avrebbe dovuto essere il peggior scenario possibile per i mercati si è concretizzato, mercati che però hanno inanellato tutti un rialzo dietro l'altro. Hanno cominciato all'inizio della settimana, ancor prima appunto che si cominciasse a votare fisicamente, perché parte del voto era già stato anche espresso con la modalità postale, con gli early voters, e poi appunto come dicevo, in realtà da inizio settimana tutto bene, anzi direi benissimo, con gli operatori che hanno puntato su settori che addirittura hanno definito difensivi: farmaceutici, i titoli della difesa, i titoli tecnologici, i titoli di Stato, tutto difensivo in questa fase. Fiorini, ma ci aiuta lei a capire a che cosa sta brindando il mercato nel suo complesso? In queste ore Milano più 1,8% in questo momento. Guardi, mi permetta di usare la sua metafora. Il mercato, per chi fa il tifo, il mercato tifa per se stesso, e purtroppo però il tifo non rende obiettivi. In questo momento il mercato tifava per avere una qualsiasi lettura potesse giustificare una continuazione del trend che avevamo visto durante l'autunno, che avevamo interrotto ad ottobre e aveva un pochino fatto dispiacere agli investitori. E la lettura può essere sempre positiva se si dimenticano gli aspetti negativi. Biden sicuramente toglie un aspetto di incertezza che era quello legato a quanto sarà forte la contestazione, toglie un elemento di incertezza legato al fatto che Trump poteva riprendere una guerra commerciale con la Cina, che in questo momento, vista la debolezza strutturale, non è diciamo, sostenibile dall'economia mondiale, ma ne introduce di nuovi. Il mercato ha ignorato l'aspetto negativo. Trump e Biden vuole alzare le tasse per finanziare una spesa pubblica che sia più riequilibratrice dei redditi. Il mercato ha preso il buono della politica di Biden, cioè più stimolo fiscale, dimenticando la parte negativa per i mercati, cioè l'aumento della tassazione. Penso che questo sia un primo elemento che prima o poi il mercato dovrà ritornare a considerare, e insieme a questo quello più importante per i mercati, che è la situazione economica. Una situazione economica che è in fase di diciamo decelerazione negli Stati Uniti, peraltro con un Covid che negli Stati Uniti non accenna a rallentare, in un paese che non sta prendendo alcun tipo di misura, mentre sappiamo benissimo che le misure contenitive sono propedeutiche poi a un miglioramento prospettico. Ecco, il Covid con i suoi casi in aumento, un'economia che comunque ha delle difficoltà strutturali negli Stati Uniti, sono gli elementi che dovranno riportare quello che sono i mercati a smettere di fare il tifo e ad essere un po' più obiettivi su quello che è la realtà dei fatti. Il grande cavallo di battaglia di Trump, l'aveva promesso nella sua campagna elettorale precedente e poi puntualmente questa promessa appunto l'ha mantenuta, è stata la riforma fiscale, quella che ha tagliato le tasse delle piccole e medie imprese, ma anche le aliquote appunto individuali e delle famiglie. La sua riforma si chiama Tax and Cuts and Jobs Act, è difficilissimo, però il taglio delle tasse e poi il Jobs Act, esattamente come lo conosciamo anche noi qua in Italia, perché l'ultimo provvedimento di riforma del lavoro appunto di qualche anno fa lo abbiamo chiamato nella stessa maniera. Lei dice, Fiorini, il mercato è positivo perché questo aspetto non lo guarda più di tanto, ma io direi che il mercato in queste ore ci ha detto, siccome il Senato è stato confermato a guida repubblicana, non potrà fare più di tanto da quel punto di vista di un inasprimento fiscale Biden, proprio perché l'onda rossa confermata al Senato appunto americano sicuramente non gli renderà la vita facile da questo punto di vista. Quindi non sarà che il mercato sta guardando a questo? Sì, sì, sta guardando esattamente a questo, cioè a un aspetto solo e non all'altro. È chiaro che la spesa pubblica senza aumento delle tasse per le corporate americane è un elemento positivo. Siamo sempre sui vincoli di bilancio, anche noi in Italia piacerebbe spendere tanto, il problema è se possiamo farlo. In America hanno un debito al 120% e un deficit già del 10%. Se Biden dovesse allargarlo spendendo solo e senza alzando le tasse per le corporate, probabilmente fra un paio d'anni si troverebbero con un debito simile a quello italiano, con un downgrade in termini di rating e impatti che non siamo in grado di misurare. E comunque il vero elemento caratterizzante di Biden, non lo dobbiamo dimenticare, era il suo concetto di redistribuzione. Negli anni di Trump l'America ha visto alcuni aumentare la loro ricchezza, tutti quelli che erano investiti in borsa, che in genere sono ricchi, o gli azionisti delle aziende tecnologiche, e ha visto un allargamento della forbice con quella che è tutta la parte operaia, lavoratrice in America. Quindi questa divergenza è quella che Biden ha, diciamo, sostenuto essere l'elemento su cui lui vuole lavorare. E anche la spesa fiscale di per sé dovrà essere una spesa fiscale che deve andare in quella direzione, non sarà una spesa fiscale a pioggia che favorirà tutti. Quindi io penso che adesso si passerà dalla quantità alla qualità dell'analisi, e quando si passerà alla qualità probabilmente questo entusiasmo dovrà fare i conti con una situazione ben diversa. Investire con qualità è anche la raccomandazione che noi facciamo sempre ai nostri ascoltatori: fatevi suggerire da un buon professionista qual è il miglior modo per puntare su mercati che sono sempre promettenti. Gli Stati Uniti lo sono, pur nei momenti di stop che fisiologicamente anche questo mercato può avere. In un minuto, Fabrizio Fiorini, chiedo anche a lei: un po' di dollaro nel portafoglio di tutti, ci dicono gli esperti, ci deve sempre essere. In che modalità? Modalità azionaria, obbligazionaria, valutaria? Un suggerimento operativo per consulenti anche risparmiatori all'ascolto. Io sulla presenza di dollaro da parte di un europeo forse era una tematica degli ultimi anni, nei prossimi anni sarei molto più cauto ad avere un'esposizione sul dollaro, tanto per diversificare, perché la banca americana sarà la banca centrale del mondo, dovranno stampare moneta per comprare l'enorme debito americano, quindi questo flusso di dollari dovrà pesare sul dollaro americano, quindi la diversificazione valutaria di per sé sarà un po' un elemento di rischiosità più che di opportunità. I titoli americani eventualmente possono diventare un elemento importante, perché anche là i rendimenti dovranno andare verso zero, perché l'unico modo che le banche centrali hanno per aiutare i governi è finanziare quella spesa pubblica che i governi vanno a fare a tassi quanto più bassi possibile, in modo che non costino in termini di interessi. E in termini di settori, secondo me bisogna stare sulla politica di Biden. Biden vuole più verde, più green, e quindi spingerà per le rinnovabili, spingerà per tutto ciò che può essere a vantaggio della base sociale che lo ha votato, e quindi ci sarà spesa pubblica sulla parte sanitaria, ci sarà spesa pubblica su tutto ciò che sono energie rinnovabili. Questi sono i settori su cui sappiamo che arriveranno soldi da parte degli americani nei prossimi anni. Grazie, grazie a Fabrizio Fiorini, responsabile degli investimenti e vice direttore generale di Pramerica SGR. Peraltro le preannuncio che c'è una domanda per lei da parte di un ascoltatore, ma non è una domanda da fare pubblicamente a Due di Denari, nel senso che magari sarà un tema di conversazione fra lei e la clientela della sua società. Un ascoltatore chiede: mi piacerebbe sapere cosa succederà ai fondi gestiti Pramerica nel passaggio da UBI a Banca Intesa. È una riorganizzazione complessa che sta andando avanti, che si finalizzerà. Non succederà niente, probabilmente rimarranno con la stessa denominazione, ci sarà una riorganizzazione interna che noi immaginiamo sarà assolutamente invisibile agli occhi dei clienti, se non in quanto a comunicazioni nuove che arriveranno prossimamente. Ma sono certa che appunto il suo consulente, lo dico all'ascoltatore, sarà in grado di darle tutte le informazioni che bisogna sapere in fase di cambiamento come questa. Grazie ancora a Fabrizio Fiorini. Investire informati. Faccio giusto in tempo a salutarlo, poi devo andare alla borsa di questa mattina, poi lo spremerò a dovere. Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO. Buona giornata e grazie. Buona giornata a lei e buona giornata ai nostri ascoltatori. Sì, commenteremo l'America, ma commenteremo più che altro il tema dell'approccio all'investimento in una fase caratterizzata dalla grande incertezza. Io, per la verità, da molto tempo a questa parte non riesco a parlare di un mercato che non abbia questo connotato, perché per definizione è incerto e soprattutto lo è generalmente agli occhi di un piccolo risparmiatore. Magari per un investitore qualificato e professionale i trend sono più o meno solidi e noti, prevedibili, un risparmiatore vede un po' meno certe dinamiche. Allora questa mattina aiuteremo i nostri ascoltatori a navigare in queste acque così complicate. Lo faremo però tra qualche istante, dopo la borsa di questa mattina. Andiamoci piano con questi messaggi, siamo sempre un programma di economia. Due di Denari. Voi volete spiegare, allora spiegate agli italiani cosa sono i tassi negativi e perché qualcuno investe perdendo i propri soldi. Ma veramente questo è un grande cavallo di battaglia, ce lo chiedete sempre, noi continuiamo a spiegarlo, a parte che nessuno è obbligato a fare un investimento se ha qualche dubbio sulla dinamica dei rendimenti e delle remunerazioni. Detto questo, sul mercato obbligazionario, Alessandro Gandolfi, gliela metto su un piatto d'argento perché questa è la vostra competenza primaria, visto che PIMCO è il colosso mondiale dei bond. Effettivamente tocca continuare a spiegare come mai in questo scenario di incertezza maturato ormai da molto tempo sperimentiamo i rendimenti negativi sui titoli di Stato, in particolar modo effetto delle politiche delle banche centrali, e questa è la spiegazione numero uno. Vogliamo completare, secondo il suo punto di vista, la spiegazione che ci ha chiesto l'ascoltatore? Sicuramente. Allora, innanzitutto stavo guardando in questo momento i tassi, tanto così almeno ricordiamo dove stanno, questo a fine, in realtà settimana scorsa, alla fine del mese scorso, avevamo tutti i tassi negativi in Germania, dai 2 ai 30 anni, 2 in Francia negativa a parte il 30 anni, in Giappone diventa 0 a 10 anni e l'Italia che diventa positiva a 10 anni, mentre negativa fino a 3, se non mi sbaglio, a 2 anni, esattamente. Quindi tutti i tassi negativi. Perché questi tassi negativi? Beh, l'ha detto lei, perché le banche centrali di alcuni paesi, in America non siamo ancora sui tassi negativi, hanno valutato come una delle opzioni che avevano per sostenere, diciamo, le economie in una situazione di inflazione pari a zero, di portare i tassi negativi in modo tale da spingere gli investitori a cercare anche investimenti tra virgolette più rischiosi ma con rendimenti più alti, ma che anche potessero sostenere maggiormente l'economia. Credo che in questo senso chi mi ha preceduto l'ha spiegato molto, molto bene, nel senso che questi tassi servono proprio anche per in qualche maniera aiutare da una parte i governi a finanziarsi, ma dall'altra parte anche gli investitori a tenere i propri portafogli investiti. La verità è che poi vediamo che gli investitori stanno accumulando masse di denaro nei conti correnti. Questo è molto vero in Italia, dove diciamo questo effetto di tasso negativo sui conti correnti non è ancora stato portato in maniera importante, anche se poi se uno va a fare i conti dei costi di questi conti correnti si rende conto che di fatto già c'è una forte penalizzazione a mantenere i soldi sui conti, mentre in altri paesi come ad esempio la Svizzera piuttosto che l'Inghilterra o la stessa Germania già diciamo i risparmiatori, le famiglie che hanno soldi sui conti correnti si vedono decurtare il proprio capitale per questo effetto negativo. Funzionano? Questa è la grande domanda che tutti ci stiamo ponendo, ma diciamo che l'alternativa è che rischiamo di vedere situazioni molto difficili sui mercati, perché chiaramente aumenterebbero la volatilità. Ogni volta che si è anche solo dato indicazioni di possibili rialzi dei tassi, ebbene abbiamo visto fibrillazioni molto forti sui mercati, e questo obiettivamente non è quello che in un'economia debole si vuole vedere. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Tanta liquidità sui conti correnti degli italiani, l'abbiamo raccontato tante volte, tanta liquidità in circolazione, quella erogata dalle banche centrali per sostenere l'economia in questa condizione di emergenza sanitaria ancora così preoccupante. Sono temi che generano incertezza. La famiglia italiana tiene il denaro sul conto corrente perché vuole essere pronta a fronteggiare un'altra fase di emergenza, se ci dovesse essere, come è capitato nella scorsa primavera. Insomma, tante le condizioni che stanno incrementando questa incertezza generale, che per la verità però sui mercati non vediamo, perché hanno avuto incertezza abbastanza importante tra marzo ed aprile, poi l'hanno superata abbastanza rapidamente e hanno ripreso a correre grazie ad alcuni settori che hanno sostenuto i listini e grazie a tante altre ragioni. E quindi qual è la sua analisi di questa incertezza sui mercati, Gandolfi? Poi magari proveremo a dare anche qualche ricetta per gestirla, anche per chi in realtà sul mercato, qualche ascoltatore lo farà probabilmente prossimamente, qualche soldino ce lo vuole ancora mettere. Ma innanzitutto, al di là della questione del momento, del giorno, che sono sicuramente l'esito delle elezioni americane, in realtà quello che ancora una volta sembra essere il forte driver, quindi diciamo la linea che spiega molti dei movimenti di mercati, è il diffondersi della pandemia e le prospettive di un vaccino. Questi diciamo sono veramente gli elementi che tengono col fiato sospeso e giustamente preoccupano i mercati, perché un'economia che viene comunque forzatamente rallentata, se non addirittura in alcuni casi fermata, per un periodo prolungato, più lungo di quello che ci si aspettava, al di là dei supporti, degli aiuti fiscali e monetari, beh, non può non lasciare molti più morti in senso economico, quindi aziende che poi difficilmente riusciranno a recuperare e riprendere un percorso di crescita. E obiettivamente questa è la grande incertezza, perché anche gli aiuti possono sì dare fiato e tenere in vita realtà che però poi dopodiché si troveranno ad avere un mercato, un'industria, un contesto competitivo molto diverso e molto più difficile anche da sopravvivere. Quindi questa è la grande incertezza a cui i mercati e anche gli investitori devono far fronte. Qual è e non può essere solo... Mi sì. Scusi, prego. No, non può essere... Non possono essere semplicemente gli aiuti monetari o appunto fiscali che da soli possono giustificare per un periodo prolungato. Noi siamo nella fase di emergenza come era marzo, sappiamo che ci sono gli aiuti gli aiuti appunto pubblici che arrivano, ma poi a un certo momento non è che finiranno questi aiuti, è che in qualche maniera saranno già scontati dai mercati e quindi si dovrà fare poi i conti con la realtà più o meno esatto. drammatica. E con la delusione di quando prima o poi qualcuno comincerà ad annunciare che tutti gli stimoli devono essere ridimensionati, e lì ancora una volta sarà quello il momento in cui il mercato manifesterà tutta la sua incertezza, vendendo, scendendo molto e chiedendo ancora invece di mantenere appunto gli stimoli, perché ormai il mercato, passatemi questo termine, è completamente drogato da tutto il sostegno dato dalle banche centrali. È stato un sostegno sacrosanto, naturalmente, che ancora sarà necessario a lungo, ma è stato veramente tanto, se non esagerato. Allora, le 11:44 quasi, si facciamo il domandone di stamattina. Stamattina ve lo dovete proprio meritare il libro della premiata ditta Deborah Rosciani, Mauro Meazza, Investire facile se anche nei momenti difficili. Allora, vi ho ricordato prima come si chiama la riforma di Donald Trump, che ha fatto tanto correre i mercati perché è stata una riforma che lui ha concretizzato non appena eletto nel 2017, di stimolo fiscale, ha abbassato moltissimo appunto le tasse sulle imprese, la banalizzo molto. Si chiama in un modo abbastanza complicato, ma in realtà la potete trovare molto facilmente questa denominazione. 800 24 00 24 per risponderci in diretta, a tra poco dopo il traffico. E se il Vate Meazza si attarda serafico, con sommo rispetto v'annuncio io il traffico. Due di denari. L'ho detto all'inizio, ovviamente è abbastanza complicato da ricordare, da tenere a mente, ma magari facendo un giretto sul web la trovate facilmente. La denominazione della riforma fiscale di Donald Trump è quella che ha preannunciato in campagna elettorale nel 2016, ha attuato subito nel 2017, che ha fatto veramente volare la borsa, soprattutto dal punto di vista delle piccole e medie imprese quotate a Wall Street. Ricordatevi come si chiama, vi ricordate come si chiama, raccontatecelo, ditecelo all'800 24 00 24, vi mandiamo il nostro libro. Alessandro Gandolfi, allora, tornando al grande vostro tema, che è quello della gestione di obbligazioni, PIMCO è lì appunto in questo comparto, rendimenti azzerati se non negativi per tante scadenze, e però comunque il vostro lavoro dovete continuare a farlo. Come si ricerca valore nel comparto obbligazionario, ricordando che naturalmente una classe di investimento è quella delle obbligazioni societarie, e tante società hanno aperto al capitale, appunto si sono aperte al capitale anche attraverso queste modalità per finanziare i loro piani di crescita. Peraltro la Federal Reserve, che ha pure un suo quantitative easing ed è un programma infinito, tra gli altri programmi ha anche quello di 750 miliardi di euro per l'acquisto di obbligazioni aziendali. Questa misura della Federal Reserve in corso ha alterato anche la dinamica del mercato obbligazionario societario in qualche maniera, come è successo sui bond governativi, Gandolfi, oppure da questo punto di vista il mercato è stato un pochino più tranquillo? Beh, direi che in generale qualunque banca centrale che fa interventi, io non userei magari il termine alterare, ma sicuramente influenza più o meno pesantemente il mercato, ecco. Condiziona il mercato. Però è chiaro che già solo l'annuncio, perché poi la cosa interessante è stato che alla fine, se uno va a vedere, di questi 750 miliardi non ne hanno spesi poi tantissimi, perché già solo l'annuncio ha in qualche maniera fatto correre gli investitori in una situazione di tassi bassi a comprare titoli corporate che avevano rendimenti un po' più alti. E poi l'altra cosa interessante è che, avendo poi iniziato questo tipo di investimento comprando proprio strumenti cosiddetti passivi, quindi ad indice, perché chiaramente non potendo fare selezioni, in realtà questa cosa non solo altera, ma crea, dal nostro punto di vista di gestori attivi, delle opportunità, perché chiaramente l'acquisto su indice è un acquisto forzato, nel senso che si comprano in proporzione tutti i titoli dentro quell'indice, senza valutare qual è ad esempio l'emittente, qual è l'industria in cui l'emittente opera, qual è l'attività o il business plan. Ebbene, questa cosa fa sì che, se nel momento tutti ne beneficiano, poi quando, diciamo, come dicevamo prima, arriva il re della rotazione, ma si inizia a dover selezionare e scrutinare quali sono quei titoli, quelle industrie che effettivamente ne riescono rafforzate, indebolite, piuttosto che semplicemente devono trasformare il loro modello di business, ebbene per un gestore attivo queste sono opportunità davvero uniche. Lei diceva prima che i tassi sono bassi, ma la volatilità è molto alta ed è esattamente la volatilità quello di cui un gestore attivo ha bisogno per poter creare performance, risultati e fare soldi per i propri clienti. Tanti argomenti con i quali molti risparmiatori fanno fatica a prendere confidenza: i rendimenti negativi sui titoli di Stato, la liquidità sul conto corrente che costa e soprattutto non rende nulla, e di conseguenza anche qua, se si va a fare poi un bilancio di fine anno sui soldi tenuti fermi lì sul conto, chiaramente si va un po' a zero e quindi non ci sono ovviamente soddisfazioni da questa scelta. La volatilità dei mercati, un mercato azionario che è sempre sorprendente, in tutto questo chiaramente avere una bussola per investire è difficile, soprattutto leggere le bussole che ci sono in circolazione. Una buona bussola potrebbe essere quella di scegliere come investire sulla base dei costi dell'investimento. Allora lo dico perché intanto c'è un ascoltatore che ci dice: la liquidità sui conti ha certo dei costi, ma perché investire in fondi con tutte le commissioni di ingresso, uscita, gestione eccetera? E proprio ieri il Sole 24 Ore, un paio di giorni fa, ha ripubblicato una nuova indagine con la quale di nuovo ritracciamo una fotografia non brillante per quello che riguarda l'industria del risparmio gestito in Italia, che è un po' più costosa rispetto al resto d'Europa. Non stiamo parlando di prestazioni clamorosamente più alte, però rispetto alla media più europea le commissioni di gestione pesano di più sui prodotti appunto italiani. Detto questo, come lo dobbiamo considerare come piccolo risparmiatore questo tema, Gandolfi? Ci dia un suggerimento operativo. È chiaro che nella media significa che ci stanno prodotti molto costosi e prodotti convenienti. Oltre a leggere tutta la documentazione che un consulente ci fornisce, come ci possiamo orientare nella scelta dello strumento di investimento che va bene per noi, considerato anche il tema costo? Guardi, mi affido a una frase di Warren Buffett, molto famosa: il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che prendi, che porti a casa. Allora, il problema è capire qual è il valore di quello che si compra, perché il prezzo è far sì che quello che si compra sia in qualche maniera coerente col prezzo. Se chi paga tanto un prodotto che alla fine magari è apparentemente gestito attivamente, ma in realtà è simile nei suoi andamenti a prodotti diciamo passivi, che per ci si aspetta che abbiano dei costi molto bassi o addirittura gli ETF, gli ascoltatori li conoscono mediamente, sono questi appunto. Noi abbiamo anche ETF, mi fa dall'occasione anche per dire gli ETF, si dice che gli ETF sono tutti passivi, in realtà non è vero, noi abbiamo degli ETF che sono gestiti attivamente e devo dire che danno delle buone soddisfazioni anche di rendimento, quindi dipende un pochettino, diciamo il prodotto passivo rispetto al prodotto attivo, poi tendenzialmente si parlano di ETF. Comunque, ritornando al punto, la gestione attiva ha dei costi, e sono dei costi reali, perché 70 analisti, quelli che ha Pimco, di specializzati per industria, che non sono dei junior, delle persone diciamo che hanno degli stagisti, ma gente che magari ha 20-30 anni di esperienza, hanno dei costi. Il andare sui mercati, avere talenti, costa, e d'altra parte se non si danno dei risultati, tendenzialmente questi costi a un certo momento non si giustificano, e noi lo sappiamo, siamo noi i primi ad avere un dovere fiduciario nei confronti dei nostri clienti investitori, dover in qualche maniera rappresentare nel valore il prezzo che pagano. E questo credo che sia la prima delle considerazioni, soprattutto, come dicevo prima, in un momento in cui ci aspettiamo, proprio per l'effetto dei tassi negativi e quindi questa ricerca degli investitori di andare a cercare il rendimento ovunque, che la volatilità aumenterà, perché molto di questo rendimento magari non è ancorato a una qualità altrettanto buona. Quindi l'investitore lo compra perché sulla carta vede che ha un buon rendimento, ma poi scopre, magari troppo tardi, che quel rendimento aveva un costo che non vedeva. Allora, questo è il compito del gestore attivo, questo è il compito di Pinco con i nostri analisti, di cercare di dare valore al prezzo che chiediamo ai nostri investitori, facendo bene il nostro lavoro, selezionando bene, cercando di far sì che anche quello che compriamo effettivamente sia rappresentato nel valore sottostante anche in condizioni di mercato diverse da quelle attuali, ad esempio quando le banche centrali non saranno così più generose o la politica fiscale, come diceva prima chi mi ha preceduto, potrà cambiare i propri indirizzi e le proprie destinazioni di aiutare certi settori rispetto ad altri. Ebbene, in tutto questo è quando la gestione attiva deve far vedere e far rappresentare il proprio valore. Certo, un lavoro che va pagato come tutti gli altri, naturalmente, che va correttamente remunerato e retribuito. Sta a noi cercare di capire qual è il valore che ci aspettiamo da certe soluzioni di investimento, e quindi abbiamo peraltro anche una offerta sul mercato in questo momento talmente vasta che possiamo sicuramente fare una scelta consapevole, anche partendo proprio dal tema costi. La risposta al quizzettone di oggi: Antonio dalla provincia di Pisa, come si chiama la riforma di Trump che ha fatto tanto correre i mercati? Buongiorno a lei, Jobs Act. È solo la metà della sigla, chissà se la conosce la risposta. Lucia dalla provincia di Pordenone. Tax Cuts and Job Act. Che tra l'altro sembra anche un po' una parolaccia, ma è CUTS, sono i tagli proprio, quindi non è una parolaccia quella che abbiamo detto. Brava Lucia, le mandiamo sicuramente volentieri il nostro libro. Grazie ad Alessandro Gandolfi per essere stato con noi, Managing Director and Head of Italy di PIMCO. Ben stato con noi, speriamo. Grazie. Ero distratta. Grazie mille. Da un messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, che ci dice: per cortesia diteci se Mauro Meazza sta bene, perché non ritorna, ci stiamo preoccupando. State tranquilli che sta benissimo. Molto spesso ci sono anche delle necessità aziendali tali per cui dobbiamo riorganizzare un po' la nostra presenza in studio. Mauro ci ascolta, peraltro lo saluto, forse ci guarda anche sul Facebook, tornerà prestissimo e io torno pure domani mattina.